Mix 24, i gialli della storia. Se un intervistatore immaginario mi domandasse: mi dica un po', professore, qual è la casa editrice di cui ha letto più libri nella sua vita? Esiterei lì per lì a rispondere. Ma se mi domandasse in modo un po' più intelligente qual è la casa editrice i cui libri hanno contato di più per lei, la mia risposta sarebbe rapida e netta: La Terza. La Terza era, come editore, un vero crocevia culturale. Certamente La Terza occupa un posto significativo. La Terza era lo spazio di libertà a cui si guardava con sicurezza. Fareste bene ad astenervi dal pubblicare romanzi, restate un editore di roba grave. Così Benedetto Croce scriveva a Giovanni La Terza, tipografo, libraio e poi fondatore della casa editrice di Bari. Era il 1902. Comincia così la straordinaria avventura di un uomo del sud coraggioso e geniale, che sceglie di fare cultura, ma soprattutto di essere libero. E noi oggi a Mix 24 vogliamo raccontare la sua storia, una storia di idee che hanno dato all'Italia una dimensione prima nazionale e poi europea. Per aiutarci in questo racconto ascolteremo, per cominciare, le opinioni e i commenti dello storico Giovanni Sabatucci, del professor Domenico Fisichella e di Alessandro Giuseppe La Terza, nipoti del fondatore. L'avventura editoriale della famiglia La Terza inizia sul finire del 1800, quando Giovanni La Terza, nel 1896, apre la sua prima libreria in un piccolo centro della provincia di Bari. Ma comincia nel profondo sud. Comincia in un paese vicino Bari, si chiama Putignano, da cui origine la mia famiglia, e comincia con un signore, Giuseppe La Terza, che faceva il falegname. C'è un rapporto, come dire, molto fisico tra il legno del falegname e il legno della carta. La cartoleria va abbastanza bene, alle attività della cartoleria si affianca un'attività di piccola attività di vendita dei libri e poi una tipografia. È un'evoluzione abbastanza tipica nell'editoria italiana all'inizio, che parte con attività appunto commerciale e industriale e poi solo dopo arriva a quella editoriale. Nel frattempo la libreria si trasferisce, libreria e tipografia si trasferisce a Bari, dove c'è l'aspettativa di un forte sviluppo della città. Questa era l'idea che spingeva a insediarsi lì. L'intuizione o la fortuna di questa piccola casa editrice fu quella di intercettare un movimento culturale che allora era ancora forse ai suoi primordi, che si stava appena profilando, che era quello della rinascita, dell'idealismo, dello storicismo, e di cui poi fu canale importante, forse il più importante. A Bari, che proprio ai primi del Novecento, anche se poi la fondazione è degli anni venti, che si comincia a discutere molto fortemente di creare una istituzione universitaria. Quindi è una città in fase di sviluppo che in qualche maniera, come sempre accade, comincia ad esprimere una più ambiziosa domanda di cultura. Ma l'Italia era un paese che proprio in quel momento, all'inizio del Novecento, stava vivendo uno dei suoi non numerosi periodi di espansione, di sviluppo, uno di quei momenti in cui l'Italia stava recuperando terreno rispetto al resto d'Europa. L'Italia in quella stagione era attraversata da un fervore di iniziative nel campo culturale ed editoriale, con anche orientamenti molto diversi dal punto di vista della lettura della storia nazionale, della storia europea, ma in un quadro nel quale c'era e ci poteva essere uno spazio. Solo nel 1901 comincia l'attività della casa editrice. La inizia Giovanni, che è uno dei fratelli, dei cinque fratelli, e inizia con dei libri a carattere locale. Questo progetto, con una forte cifra locale, fallisce quasi subito. Quindi Giovanni La Terza si mette alla ricerca di un consigliere. E per questa ragione, dopo pochi mesi, Giovanni La Terza si reca nella città partenopea al fine di incontrare alcune personalità dell'epoca in grado di dare impulso, idee e linfa alla sua attività editoriale. Ed è qui che conosce Benedetto Croce. Croce all'epoca era già un pensatore, un intellettuale affermato, anche se non era ancora quel papa laico che poi è stato definito e che è diventato tra le due guerre, cioè un maestro indiscusso degli studi, ma era già un nome abbastanza affermato, e quindi giovane autodidatta, perché Giovanni era autodidatta, già lo conosceva, lo va a trovare e gli chiede dei consigli e gli chiede una collaborazione. Croce, che non conosceva questo giovane, ma che ne intuisce evidentemente le capacità, decide di metterlo alla prova e quindi gli dice: non posso darti i miei libri, perché aveva già Croce un editore affermato, ma posso metterti alla prova suggerendoti dei testi da pubblicare. Uno tra i primi testi che Croce suggerisce è un libro molto singolare scritto da due inglesi che si chiama L'Italia d'oggi. Croce ne segue la traduzione, che affida al fratello, ne segue la pubblicazione e comincia quel rapporto con Giovanni che poi andrà avanti negli anni successivi anche con le opere che poi Croce, quando avrà visto che questo giovane merita la sua fiducia, gli darà. I partiti politici hanno perso fede nei loro principi, nel loro paese, in se stessi. L'azione loro sembra poco meglio di un'interessata lotta per raggiungere cariche pubbliche e di una cieca resistenza a forze che non sanno comprendere e assimilare e pertanto temono. La politica italiana si è annebbiata. Niente lo mostra in modo più penoso della differenza che corre fra la destra e la sinistra di oggi rispetto agli uomini politici che governarono l'Italia nuova nei suoi primi tempi. Il piccolo editore cercava un autore che lo aiutasse a imporsi su scala nazionale. Croce cercava un editore che rispondesse alle sue esigenze. Col passare degli anni, i legami tra Giovanni la Terza e Benedetto Croce diventano sempre più forti. Croce, attraverso la Terza, indica agli italiani quali classici leggere e come quali filosofi, quali storici, quali critici, condizionando un vasto settore delle discipline morali. Ne parlano Stefano Rodotà, l'economista Paolo Silo Slabini, Tullio De Mauro e ancora Alessandro Giuseppe la Terza. C'è stato questo grande incontro tra Benedetto Croce e Giuseppe la Terza. Quindi c'è questa fortunata congiuntura. È accaduto perché c'era un editore con grandi capacità e c'era un uomo, e cioè Croce, che era un uomo molto determinato, avendo un programma culturale per la società italiana. Bisogna tener conto che quando Croce collabora con la Terza, negli anni, diciamo negli anni che vanno, sono intorno alla prima guerra mondiale, subito dopo, porta alla Terza una serie di autori molto importanti e praticamente la gran parte degli intellettuali, diciamo, di orientamento liberale, e tra questi Giovanni Gentile, con cui Croce era legato da un rapporto di amicizia, di consonanza. Quando il fascismo va al potere e poi si consolida, inizialmente, come si sa, Croce ebbe nei confronti del fascismo un atteggiamento di, come dire, attendista, cioè in cui, come dire, volle valutare cosa era questo nuovo partito, questo nuovo movimento, e poi piano piano si rese conto della valenza autoritaria sempre più forte, sempre più pronunciata del fascismo, e prese posizione, diciamo, distaccandosi dal regime, al contrario di Gentile, che invece si fece sempre più intrinseco fino a diventare per un certo periodo ministro anche della pubblica istruzione. Sono gli anni in cui naturalmente per la Terza si pone il problema doloroso della scissione e della rottura tra Croce e Gentile. La rottura è una rottura dolorosa per tutti, anche per Croce. Con la storia della casa editrice La Terza proseguiamo dopo la viabilità. Faircam Distribution, la soluzione adatta per la spedizione dei vostri prodotti in Italia e in Europa. Faircam.com vi presenta. Mix 24, i gialli della storia. Siete ancora all'ascolto di Mix 24, che oggi vi sta proponendo la storia di Giovanni la Terza e della sua casa editrice. Siamo al momento dell'ascesa del fascismo ed è necessaria una scelta di campo difficile e rischiosa. Ancora Stefano Rodotà, Giovanni Sabatucci, Domenico Fisichella, Tullio De Mauro, storico della filosofia Tullio Gregori. L'avvento del fascismo segna una profonda lacerazione nel paese e obbliga la terza anche ad una scelta di campo. Se in un primo momento l'autorevolezza e la notorietà di Croce avevano consentito all'editrice Barese una seppur minima libertà editoriale da parte della censura fascista, le cose precipitano drammaticamente con l'omicidio di Giacomo Matteotti. Durante tutto il ventennio, questo è il momento più buio per l'Italia e per gli intellettuali. Ormai anche i rapporti tra Croce e Gentile si sono consumati. È il 30 gennaio 1928 quando Gentile scrive alla terza. Caro compare, la questione è molto semplice perché non riguarda il rapporto tra Croce e lei. Riguarda invece i rapporti tra lei e me. In quel caso la scelta di Giovanni fu una scelta coraggiosa, perché fu una scelta a favore di un intellettuale, certo, di grande autorevolezza, ma privo di potere, diciamo, politico o istituzionale come era Croce, sapendo che questo l'avrebbe portato a staccarsi da Gentile e negli anni successivi a fare una vita molto difficile. In una fase della storia d'Italia in cui non era accettabile di porsi degli interrogativi, la terza ha continuato a porre degli interrogativi. Gli anni che precedono il secondo conflitto mondiale sono probabilmente i peggiori per il paese, ma anche per l'editoria e Croce. Senza entrare nel campo della lotta politica aperta, perché non avrebbe sopravvissuto, ma alimentando i filoni con la casa editrice, i filoni di un pensiero liberale anche attraverso delle opere che non avversavano direttamente il regime, né avrebbero potuto farlo, ma che mantenevano aperto il pensiero, mantenevano gli interrogativi. Il filosofo è pedinato in ogni suo spostamento. La sua casa è invasa e danneggiata da squadre fasciste. La prefettura di Napoli apre un apposito ufficio per controllare la corrispondenza del noto oppositore. La casa La Terza, sottoposta a controlli, perquisizioni, sequestri, diffide. Si comunica che questo ministero non ritiene opportuno che la casa editrice La Terza proceda ad eventuali ristampe del volume La concezione materialistica della storia di Labriola. Si gradiranno assicurazioni in merito. Beh, questa era l'Italia fascista a livello dei rapporti tra fascismo e intellettualità. E in questo clima Croce continua il suo lavoro e continua a vedere ben pochi amici in una solitudine non inferiore a quella delle carceri. La terza è stata una casa editrice che ha pubblicato libri non fascisti. Probabilmente l'atteggiamento di Croce non è mai stato tale da mettere in scontro, diciamo, diretto la casa editrice col fascismo, salvo alcuni episodi più tardi, ma certo era una posizione, come dire, scomoda all'interno dell'Italia fascista. Ma nonostante le difficoltà, la villa dell'editore a Bari diviene un centro di dibattito culturale e politico, tanto che la polizia fascista individua queste riunioni come pericolose. Se qualcuno deve essere ammirato chi è restato in Italia, ha saputo restare in Italia e non piegarsi come Benedetto Croce. Tentarono i fascisti di Napoli di assalire la sua casa, l'assalirono danneggiando gravemente la biblioteca. Fu un tentativo, direi, quasi locale. Non dobbiamo dimenticare che Croce, nella prima fase della presentazione del fascismo sulla scena politica italiana, aveva assunto un atteggiamento tendenzialmente benevolo, ed è stato poi solo in un secondo momento, essenzialmente attorno alla vicenda Matteotti, che si consuma la distanza piena fra Croce e il regime. Croce era un personaggio molto noto, molto prestigioso anche fuori d'Italia. Una sua persecuzione diretta sarebbe stata probabilmente un autogol dal punto di vista propagandistico per il fascismo, e quindi Croce fu lasciato libero di stampare i suoi libri, anche quei libri come La storia d'Italia, La storia d'Europa, che contenevano un messaggio implicitamente antifascista, e di stampare la sua rivista. Fu una di quelle zone che il fascismo entro certi limiti rispettò. Naturalmente questo aveva come corrispettivo una qualche forma di autolimitazione da parte di Croce, dei suoi amici, dei suoi collaboratori e dei suoi stessi editori. Il fascismo è stato la prova del nove, della saldezza dei rapporti tra la casa editrice, che ormai contava alcuni decenni di attività, e Croce. Il fascismo non solo non riesce a ledere questo rapporto, ci prova, ma non riesce a ledere questo rapporto e lo rafforza. Quindi la Terza è uno spazio di libertà. Tutte le generazioni, dagli anni 30 in poi, fino ai decenni del dopoguerra, sono di necessità passate attraverso la lettura dei libri di Croce e dei libri pubblicati nella Casa La Terza, dove i libri venivano pubblicati solo dopo il placet di Croce. Poco prima del 25 luglio del 1943, Tommaso Fiore, Guido De Ruggero, Guido Calogero e Nino La Terza, figlio di Giovanni, come del resto accadeva in quegli anni un po' in tutta Italia a chi si opponeva al regime, vengono arrestati insieme ad altri antifascisti perché trovati in possesso di volantini contro il regime e sospettati di cospirazione. Il 28 luglio dello stesso anno, l'esercito apre il fuoco contro il corteo degli antifascisti che si recava al carcere per chiederne la liberazione. Il 21 agosto 1943 muore Giovanni La Terza. Gli succede il figlio Franco. Siamo al culmine della Seconda Guerra Mondiale. L'Italia è sotto le bombe, come del resto Bari e soprattutto Napoli. Di lì a poco la guerra si concluderà. L'Italia uscirà distrutta dal conflitto mondiale. Strade, ponti, ferrovie, tutte macerie. Sta per aprirsi comunque il grande scenario della Repubblica. Gli italiani scelgono tra monarchia e Repubblica. Il re sceglie l'esilio. L'Italia muta pelle. Rifioriscono i quotidiani e i circoli culturali. Pochi anni dopo, nel 1952, muore Benedetto Croce. Benedetto Croce, il filosofo della libertà, alle 10.48 di giovedì 20 novembre ha serenamente chiuso la sua intensa e operosa vita terrena. Per la casa editrice si apre una nuova fase. Una fase senza Croce e la sua influenza, e nella quale bisogna fare i conti con l'esistenza di altre case editrici che operano con vigore sullo stesso versante. Prima di tutto è Einaudi. La morte di Benedetto Croce segna un momento molto difficile per la casa editrice, che si trova di fronte a scelte che potranno determinare e segnare in maniera radicale il suo futuro. Ne parleremo dell'evoluzione della casa editrice La Terza dopo la pubblicità. Il segnale orario vi è offerto da Logica, spazio, tempo, Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Mix 24, i gialli della storia. Siete ancora all'ascolto di Mix 24, che oggi vi sta raccontando la storia della casa editrice La Terza. Dopo la morte del fondatore Giovanni La Terza e successivamente di Benedetto Croce, che ne era stato in qualche modo la mente intellettuale, la casa editrice si trova in grande difficoltà, non avendo una chiara strategia da inseguita da nuove società che affrontano argomenti editoriali simili. Bisogna aprirsi a nuove tendenze, a nuovi orizzonti, come intuisce Vito La Terza, che adesso governa la società. L'idea iniziale era quella: si continua a, adesso semplifico, a ristampare Croce. Quindi l'idea che tutto sommato si potesse vivere di rendita. Posso dire nel senno di poi che saremmo morti dopo, di fatto, poco dopo la morte di Croce. Non è più la casa editrice imperniata unicamente sul pensiero di Croce, ma deve aprirsi, se vuole sopravvivere, alle nuove tendenze nell'ambito della filosofia, a nuove discipline. E questo è quello che avverte Vito La Terza, che entra in quegli anni, i primi anni 50, in casa editrice e che realizza un'operazione di trasformazione, di apertura importante. L'idea fu subito, dal momento in cui entrai nel 49, quella di conservare il livello culturale estremamente prestigioso che la casa editrice aveva acquisito in 50 anni di attività, cercando però di allargare il pubblico dei lettori. Lo ha fatto subito fondando una collana che si chiamava, e si chiama perché esiste ancora oggi, che Libri del Tempo, e che apriva focalizzava l'attenzione su alcuni grandi temi di attualità politica, culturale, storica. La Terza, che non ripubblica Croce, ci deve pensare a Delfi successivamente. La Terza, che aveva un blasone, Croce, non lo pubblicava più. Era tanto un blasone, tanto legato a questa memoria, a questo ricordo di Croce, e sapevo che cosa aveva rappresentato e poteva ancora rappresentare per la cultura italiana, che Montanelli dimentica che nel 1965 io rilanciai le opere di Croce, non tutte per volere della famiglia, ma una parte, rilanciai le opere di Croce in edizione economica. E allora, dal 65 al 75, in una decina d'anni, pubblicammo una quindicina di volumi, quelli più importanti, quelli di maggiore attualità, che ebbero una notevole fortuna, direi una grande fortuna, andando a tirature che partivano da 10.000 copie, arrivavano a 30-40.000 copie, che per allora erano veramente cifre notevolissime. I libri del tempo nascono negli anni 50 perché mio padre, perché Vito La Terza, vuole dare un segno forte dell'impegno civile della casa editrice, e quindi diciamo in anni di ricostruzione di dopoguerra i grandi temi della scuola, della sanità, della giustizia vengono affrontati con un taglio di discussione critico, informativo ma anche propositivo. Accade che si va affermando, già subito dopo la fine della guerra, una cultura che tende a, a pubblicare libri che siano anche di intervento. Negli anni 60 la casa editrice pubblica i Quaderni del Mondo, e cioè si rifà una corrente liberale, progressista, diciamo azionista, di pensiero critico, che rimane un po', tutt'oggi è, io credo, quella che caratterizza maggiormente il contributo della casa editrice. Da quel serbatoio di relazioni essenzialmente nasce questa esperienza della collana, e di qui una nuova fase della storia della casa editrice. E in questo il contributo di Vito La Terza è stato fondamentale. 100.000, 150.000 e persino mezzo milione di copie i romanzi di successo. Oltre 12.000 titoli pubblicati in un anno. Un giro di affari che nel 1957 era di 40 miliardi, nel 1960 di 52 miliardi, salito nel 1962 a 70 miliardi. Però credo si possa senz'altro affermare che siamo ancora ai tradizionali consumatori. Gli editori sono così impegnati perché hanno fiducia che tutto il paese, dopo aver risolto problemi molto più scottanti, quali sono quelli della scuola, degli ospedali, avvertano anche la necessità di affrontare una politica della cultura che rendono un paese progredito veramente civile. Gli anni 60 sono contraddistinti dal boom economico, dalle lotte operaie, dalla contestazione studentesca. Esplode il 68. Questo tipo di battaglia non è un tipo di battaglia che mette in discussione. In questi anni, La Terza pubblica La fine dell'utopia di Marcuse e Il saggio sulle classi sociali di Silo Salabini. Mettevo in evidenza una cosa che a me era apparsa, che le classi medie, che secondo Marx sarebbero andate giù, mentre si sarebbe fermato sempre di più il proletariato, che sarebbe diventato la stragrande maggioranza della popolazione, diceva, l'unica via d'uscita è la rivoluzione, che altro vuoi fare? Andare verso il peggio, la stragrande maggioranza, e poi se arriva il proletariato al 95 e fai la dittatura, non è una dittatura, è un modo per mettere in condizione di non nuocere una minoranza aggressiva, grifagna. Siccome lì dicevo che il Partito Comunista non è vero che era il partito della classe operaia, c'aveva, secondo uno schema che avevo elaborato con tanti dati, ma plausibile, che lì nella precisione è impossibile, il 60% di votanti erano classi, si potevano definire classi operaie, ma nella democrazia erano una cinquantina, mica male. Quindi allora io dico una cosa del genere, mi fa passare immediatamente per nemico del popolo, che le classi medie stavano crescendo, stavano quelle diventando la maggioranza della popolazione, in parte lo erano, sono diventate sempre di più. Quel libro fu accolto in modo critico ma positivamente, non negativamente. E i comunisti non sono diventato nemico del popolo come ero convinto. Ma all'epoca dell'egemonia crociana il Papa era Croce. Cioè. E all'epoca dell'egemonia gramsciana, visto che Gramsci era morto, chi era il Papa? Era il Partito Comunista. Era il Partito Comunista, non c'è il minimo dubbio. Naturalmente questa egemonia veniva esercitata in maniera pressante, vincolante per alcune case editrici, già che si è parlato di case editrici. Certamente non era vincolante per me personalmente, ma certamente che c'era, e c'era per la semplice ragione che all'egemonia crociana era succeduta l'egemonia culturale gramsciana, che io ritengo, ho sempre ritenuto e ritengo, credo ancora oggi, sia stato il crociano più illuminato, il crociano più nuovo, il crociano più originale. È chiaro che di questo Gramsci niente affatto allineato e coperto dal Partito Comunista, come dimostra la biografia di Gramsci che io pubblico, ma con l'accusa e l'attacco da parte dei comunisti. Ha pubblicato anche il libro di Bocca su Togliatti, che non era certamente ben visto dai comunisti. Fu attaccato violentemente. Quando Bocca dice che quando pubblicò il libro di Brezhnev, il libro sulla Russia di Brezhnev, trovò nell'editore qualche incertezza. No, caro Bocca, da parte mia non c'è stata mai alcuna incertezza nel pubblicare i tuoi libri, che erano molto belli e sono stati molto importanti. Io ti sono stato sempre vicino, amichevolmente, tu lo sai, soltanto per alcune precisazioni che delle volte ti sfuggivano, ma soltanto per collaborare. Il grande editore non si limita a stampare e a fidarsi dell'autore, legge i testi con un occhio suo particolare e se ha l'esperienza che hanno avuto appunto Vito, e riesce a far migliorare il testo che viene presentato. Tra gli anni 70 e gli anni 80 c'è una grande espansione editoriale in Italia, ma è anche un'epoca contraddistinta dagli anni di piombo, dal terrorismo rosso e nero che raggiunge il suo culmine col rapimento Moro. E allora negli anni che seguono il panorama editoriale cambia bruscamente, il riflusso, l'allontanamento dalla politica, un minore impegno dei giovani nelle battaglie civili, e questo si riflette anche sulla vendita dei libri. Ma la Terza risponde con un ampliamento delle pubblicazioni ed è proprio in questi anni che sale sulla plancia di comando della casa editrice la quarta generazione della Terza. Noi siamo entrati in casa editrice più o meno negli stessi anni. Mio padre ci ha fatto lavorare tutti e due, come si dice, alla gavetta. Abbiamo fatto per molti anni redattori, poi lui si è dedicato più allo scolastico, io all'ufficio stampa, ma prima di arrivare ad avere delle responsabilità di direzione, poi in consiglio di amministrazione, sono passati molti anni. La cultura italiana è ormai sempre più legata al mondo intellettuale europeo e internazionale. La Terza avvia una serie di rapporti con autori europei e americani. Ed in prima edizione mondiale arrivano, tra le altre, le opere di Le Goff, Dahrendorf e Fiuret. Ma noi abbiamo varato la prima collana europea, l'unica collana che io sappia che mette insieme cinque grandi case editrici europee intorno a un tavolo, si chiama Fare l'Europa. L'abbiamo fatto con un grande storico che è Le Goff, e in questa collana la peculiarità è che abbiamo commissionato a grandi intellettuali europei, per l'Italia autori come Umberto Eco, come Leonardo Benevolo, come Luciano Canfora, libri che riflettono criticamente sull'Europa. Anche qui l'Europa è una costruzione che richiede grande passione, grande impegno civile, ma anche grande lucidità. Non si costruisce l'Europa sulla retorica europea. Bisogna sapere tutto ciò che ci ha diviso in passato e che rende oggi più difficile stare insieme, perché poi si possa effettivamente costruire un'Europa. Non muta ovviamente l'impegno civile e il senso della denuncia da parte dell'editrice La Terza. Negli anni 90 l'Italia è travolta da Tangentopoli. Si chiude quella che i giornali e gli analisti politici hanno definito la Prima Repubblica. Sono anni di aule giudiziarie, processi, scontri politici. Il tutto raccontato in TV, dai giornali, dai libri. La Terza è tra i protagonisti editoriali del momento. Dopo la morte di Falcone e Borsellino, sembra si sia stabilita una nuova coabitazione tra politica e mafia. Le organizzazioni mafiose evitano le stragi, ma hanno ripreso a fare affari, a corrompere, a impadronirsi di aziende e amministrazioni locali. C'è da chiedersi se il problema della mafia è destinato a ridiventare una sorta di attributo indispensabile dell'Italia contemporanea. Sul finire del secolo scorso, l'editoria italiana attraversa una fase di rapido mutamento. La maggior parte delle case editrici viene assorbita da imperi editoriali fatti di giornali, radio, televisione, catene di librerie. A loro volta questi conglomerati editoriali vengono acquisiti da alcuni giganti finanziari e industriali, sempre più attivi nel settore via via che aumenta il ruolo e il peso dell'informazione nella nostra società. Nonostante tanti fermenti finanziari, i dati sulla lettura però sono ancora marginali rispetto alle grandi democrazie occidentali. Un editore oggi ha tanti problemi, uno dei quali, forse il principale, è che il ritmo della vita moderna è antitetico alla lettura. La lettura richiede uno stacco dalla quotidianità, uno stacco dalla rapidità e dal ritmo della vita quotidiana. Il libro esige una concentrazione e noi non siamo più, o siamo molto poco ormai, in grado di concentrarci. Ma è per questo che è tanto più importante leggere, perché invece questa concentrazione, questa astrazione, questo momento in cui mi tiro fuori dalla realtà è il momento della creatività, è il momento in cui mi vengono le idee, in cui rielaboro tutto quello che ho introiettato, messo dentro nel momento precedente, in cui sono in grado di riaffrontare la realtà in maniera creativa. Giornali e libri segnano il passo. I dati sulla lettura sembrano essere ancorati a quelli di 40-50 anni prima. Ma quali sono le sfide allora per un editore dal terzo millennio? E ancora, è possibile coniugare rigore intellettuale con il concetto di vendere cultura? Noi siamo un paese straordinariamente colto a livello di elite. Cioè ci sono circa 3 milioni di persone, quindi non una piccola percentuale della popolazione, che è un'elite di forti lettori. Da questo punto di vista io credo che noi siamo nettamente al di sopra di tutti i paesi europei, non ho pochi dubbi su questo. Il problema è che la gran parte della popolazione legge poco o non legge. Ma allora, quali possono essere le strategie possibili per una casa editrice in un momento come questo? Ne parlano Alessandro Giuseppe La Terza, Tullio Gregori, Boris Bianchieri, ex presidente della FIEG, Giovanni Sabatucci e Stefano Rodotà. Oggi la difficoltà di fare l'editore è la necessità, io credo, non faccio l'editore, sono amico di tanti editori, ma è quello che i libri debbano essere per buona parte consumati, cioè venduti nel giro di pochi mesi. Quindi il rischio che il libro diventi un leggi e getta. Io credo che i problemi di oggi sono poi sempre stati anche i problemi del passato. Il problema è quello di assicurare una solidità economica alla propria azienda, e questo è indispensabile, perché un'azienda che non sia sana diventa vittima di qualcuno, o chiude o diventa vittima di qualcuno. Cerchiamo di fare una saggistica che tenga sempre più conto di un lettore curioso, ma molto, diciamo, plurale. Un tempo c'erano lettori influenzati da certe scuole, da certi orientamenti, anche politici. Oggi i lettori sono molto più individualisti, ognuno ha le sue curiosità, e quindi è una sfida molto interessante per l'editore inseguire questa diversificazione del mercato. È più difficile per un editore che non voglia ridursi a un editore di nicchia, perché anche quelli ci sono e hanno la loro funzione, la loro utilità, e concentrarsi sulla cultura alta, sulle grandi opere, sulla produzione appunto di fascia alta dal punto di vista culturale. Bisogna anche, e La Terza in questo senso lo ha fatto, lo fa non certo da oggi, intervenire con prodotti leggeri, che non vuol dire necessariamente meno seri o meno importanti. Noi contiamo, scommettiamo molto nella scuola, e con un taglio innovativo cerchiamo di produrre dei manuali che siano di servizio per gli insegnanti e per gli studenti, ma anche di sperimentazione di nuove forme di insegnamento. Credo che una serie di libri pubblicati dalla Terza, la storia, cioè, hanno obbligato una serie di studiosi a cimentarsi con questo obbligo di comunicazione. Un secolo di libri, passione civile, rigore aziendale, tutto questo è stato per il Novecento la casa editrice di Bari. Ma oggi cos'è? E che cosa ha rappresentato ancora Giovanni Sabatucci, Alessandro Giuseppe la Terza, Stefano Rodotà, Boris Bianchieri, Tullio Gregori, Tullio De Mauro, Domenico Fisichella? Che cos'è oggi la Terza? È una delle case editrici che ancora oggi in Italia fanno cultura. Non è certo la sola, ce ne sono fortunatamente delle altre, però è uno dei, insieme a altre tre o quattro, diciamo, è uno dei canali attraverso cui passa oggi la produzione di cultura in Italia dal punto di vista appunto dei libri, della carta stampata. Beh, il maggior vanto è di esserci, punto, cioè nel senso che qui noi viviamo, abbiamo attraversato stagioni negli ultimi decenni in cui per esempio ci sono stati processi notevoli di concentrazione editoriale nel campo, mi riferisco al campo dell'editoria libraria, ma voglio dire ci sono ovviamente anche altri settori paralleli in cui questo è avvenuto, in cui sembrava che una casa editrice indipendente, che non fosse in realtà il marchio appartenente a un grande gruppo editoriale e finanziario, non potesse avere, diciamo, storia. Noi in realtà ce l'abbiamo fatta in quella che è stata indiscutibilmente una moria di sigle indipendenti. Le catene legittimamente hanno la logica della grande distribuzione, sono dei supermercati, del libro, ma supermercati. Credo che in quegli anni il contributo di La Terza proprio sul terreno di dare strumenti di analisi sia stato particolarmente importante e in questo senso La Terza, io ripeto, ha anche saputo fornire un crocevia culturale. La modernizzazione è la più prolifica e meno controllata linea di produzione di rifiuti e di esseri umani di scarto. La depressione è un disturbo mentale assai spiacevole, tormentoso e invalidante, ma non è l'unico sintomo del malessere che pervade la nuova generazione nata nel mondo attuale, il mondo liquido moderno, mentre a quanto pare non affliggeva la generazione immediatamente precedente. In La Terza proprio il fondamento è la libertà di pensiero, la libertà di espressione, direi anche l'andar controcorrente, che è una delle grandi prove di libertà, perché alle volte si ha l'impressione di essere liberi, ma si ripetono soltanto le cose che già sono state dette. Si crede che si è liberi, ma in realtà si è vittime di cose che sono state dette prima di noi. Ecco, questo è qualche cosa che la Terza non fa, non pubblicherà mai niente perché è nel vento. Pubblica semmai delle cose contro vento. Per parlare di efficienza, o più esattamente di funzionalità del servizio giustizia, occorre riprendere alcuni dati. Nel giugno 2004 i procedimenti pendenti erano 8.944.932. La durata media dei processi non è esattamente determinabile, ma si tratta comunque sempre di parecchi anni. A fronte di ciò, le domande sorgono spontanee. I giudici sono troppo pochi? O non lavorano a sufficienza? Anche se da un lato è pressato dalla necessità di pubblicare libri che hanno l'impressione di essere molto estemporanei o legati alla minima attualità, dall'altro fornire sempre quegli strumenti di analisi critica che debbono caratterizzare una cultura e un editore di cultura. Se questa espressione pubblico colto ha un senso, moltissimo si deve al fatto che un editore come La Terza lo ha alimentato, lo alimenta e sta attento a capirne le esigenze profonde, non solo quelle di breve periodo, che pure sono importanti per stare in libreria. Beh, il pregio maggiore di questo editore intanto di avere veicolato filoni di pensiero importanti della nostra elaborazione dottrinale italiana. Onestamente, il dovere di un editore non è quello di essere un grande intellettuale, ma di essere una persona, un bravo organizzatore di cultura e di essere una persona molto capace di ascolto. La guerra al terrorismo non è una pura metafora, come la guerra alla fame e la guerra alla povertà. I terroristi che ci attaccano non ci invaderanno e non assalteranno obiettivi militari. La loro è una guerra fideistica contro il grande Satana, contro un mondo corrotto e impuro di infedeli o di cattivi fedeli. Credo che la battaglia sia una battaglia in gran parte culturale. Si tratta di cambiare il modo di pensare delle classi dirigenti, di dare a loro un sostrato culturale che certe volte manca. E quindi da una parte c'è un elemento critico, ma dall'altra parte c'è un alimento, diciamo, a andare ogni giorno avanti e credere ancora di più all'importanza di questo lavoro. La parola, se non resta scritta, non può essere solo orale o non può essere solo immagine. Le grandi civiltà si sono fatte con la parola scritta. E io credo che la parola scritta nel libro, ripeto, nella stampa quotidiana, periodica, quello che è, rimane l'ancora della civiltà di un paese e della civiltà di una società. Hanno collaborato ai Gialli della Storia Francesco Anzalone e Antonella Migliaccio. Le puntate di Mix 24 si possono riascoltare sul sito www.radio24.it nella pagina dedicata a questa trasmissione.